ancora nel buio, tu che sognerai di uscire dal buio. Michel, col sacco a pelo sulla strada vai, Michel, tu te ne vai. Mangi in un cartoccio giallo pesce fritto, d'ora in poi mai più ne mangerai. Michel, lasci la strada verso i campi vai, Michel, ma dove vai? Sogni in California una comune, è un campo senza muri ci sarà, e tu con le altre pietre rotolanti farete dell'inverno un'altra estate. Sarà bella questa libertà, Michel, se ci sarà. Cerchi un posto dove il sole è caldo, cerchi un posto dove il corpo sarà vivo, Michel, alla comune che ti aspetta vai, Michel, se ci arriverai. Sogni in California un'altra vita, un campo dove amore crescerà, e prenderai la terra fra le mani, ti riempirà di sole. Michel, è un'illusione la campagna ormai, Michel, non vive più.